Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Ed eccoci, io e Carlo, il 21 luglio del 2007, la data in cui sarebbe uscito Harry Potter and the Deathly Hallows. Avremmo scoperto finalmente se Lord Voldemort sarebbe morto, se Harry Potter sarebbe sopravvissuto, ma soprattutto se Severus Piton si sarebbe redento dal terribile omicidio commesso. Sono Valentina, ho 24 anni e abito a Milano. Nella vita sono all'ultimo anno della specialistica di architettura e sono felicemente impegnata. Marco, vi leggo subito questo messaggio che è arrivato sul profilo Facebook che riguarda la puntata di oggi. L'attesa per un concerto degli AHA. Credo si dica AHA, giusto? Con la H davanti sulla seconda A. Nel 2002, alle 2 del pomeriggio, e il concerto iniziava alle 8 di sera, abbiamo trovato la porta del palazzetto aperta. Ci siamo infilati sulle gradinate e ci siamo visti tutte le prove. Poi siamo rimasti lì, qualcosa come 6 ore, e va detto che il palazzetto era uno stadio del ghiaccio. Era un 7 di dicembre ed eravamo a Zell am See, località sciistica vicino a Salisburgo. Quindi scusa, hanno fatto un concerto in un palazzetto del ghiaccio, ma con il ghiaccio mi sembra difficile. Passava gente dello staff davanti a noi, ma nessuno ci ha mai mandati via. Prima fila garantita e non ci hanno nemmeno controllato il biglietto. Estenuante ma favolosa, forse irripetibile. Comunque, qualche fan mi scrive che è andato agli ultimi 2 concerti d'addio degli AHA, perché hanno fatto anche dei concerti di addio gli AHA a Oslo 2 anni fa. Ha fatto di peggio, uscito dal primo concerto è rimasto fuori dal palazzetto tutta la notte per avere la prima fila garantita il giorno dopo. 349-238-6666, voi siete qui, @radio24.it, oppure voi siete qui Radio24 sul profilo Facebook. Questa è Radio24, sono le 16:09 minuti. Io sono Matteo Caccia, il programma è Voi siete qui. Oggi raccontiamo la storia di lunghe attese. Sapete quelle lunghe attese in attesa? No, cosa, aspetta che la ripeto. Quelle lunghe attese aspettando che esca qualcosa, l'uscita di un gruppo rock in questo caso, l'uscita di un libro, l'uscita di un disco, oppure ce n'era una che c'entrava poco, ma era molto bella proprio perché c'entrava poco. Liliana, 4 ore di fila a Napoli nel 1992 per visitare la farmacia degli incurabili, appena restaurata e aperta al pubblico. 349-238-6666. La storia che ci è arrivata tempo fa, che è la storia di Valentina e che leggiamo oggi, racconta proprio di una attesa lunghissima, peraltro però non è un concerto, non è una partita di calcio, non è la farmacia degli incurabili che è appena stata restaurata, è un libro. O meglio, non è un libro, è l'ultimo capitolo di una saga composta da 7 libri, quindi in questo caso il 7° libro, avete capito, è la saga di Harry Potter. Ecco, ci sono persone che queste cose le fanno, altre no. Ma qui c'è la differenza tra appunto avere una passione forte o avere una passione debole o una passione tiepida, diciamo così. Oggi si parla di questo, si parla di come soprattutto Valentina sia rimasta ore ad aspettare l'uscita di questo libro fino a che è successo qualcosa. Dicono che ogni generazione cresca con dei miti, degli eroi, da Luke Skywalker a Frodo Baggins. Personaggi immaginari che insegnano ai giovani bambini che non bisogna mai arrendersi. La mia generazione è cresciuta insieme a un maghetto di 11 anni e la speranza mai morta di ricevere una lettera via gufo dalla scuola di magia e stregoneria di Hogwarts. Così, dopo aver letto 6 meravigliosi libri, aver pianto per la morte di Sirius come se avessimo perso anche noi un padrino che ci avrebbe insegnato come diventare adulti, o di Albus Dumbledore, come se fossimo stati noi a vedere il suo cadavere ai piedi del maestoso castello. Eccoci qui, io e Carlo, il 21 luglio del 2007, la data in cui sarebbe uscito Harry Potter and the Deathly Hallows. Avremmo scoperto finalmente se Lord Voldemort sarebbe morto, se Harry Potter sarebbe sopravvissuto, ma soprattutto se Severus Piton si sarebbe redento dal terribile omicidio commesso. La mia passione per Harry Potter nasce da quando una mia carissima amica mi ha consigliato di leggere i libri quando ancora questi non erano famosi. Ero una ragazzina di 14 anni e mi sono subito appassionata a questo ragazzino che con mille difficoltà riesce ad affrontare un potentissimo mago oscuro. Così, alle ore 17, ci presentiamo davanti alla Feltrinelli International di Piazza Cavour a Milano, per prendere posto nell'attesa dell'una di notte, in cui avrebbero venduto, in contemporanea mondiale, l'ultimo volume. Dovevamo essere i primi. Ce lo meritavamo. Volevamo essere i primi a leggere quale sarebbe stata l'ultima parola. E al momento i primi lo sembravamo. Aspettiamo facendo un giro nel parco di Palestro, lì, di fianco, mangiando al volo un panino per poi scoprire che la Feltrinelli avrebbe chiuso per riaprire alle 23. Così ci sedemmo per terra davanti alle porte del negozio a fare amicizia con altri ragazzi che, come noi, aspettavano con ansia. Ma eravamo i primi, in testa a tutta la gente che piano piano si era raggruppata sotto il portico. L'attesa sembrava interminabile, ma scorreva veloce, parlando con altri appassionati, facendo congetture, pensando ai passi più belli dei passati 6 libri. Fino a quando gli animatori della Feltrinelli non uscirono per consegnare a ognuno di noi un piccolo bigliettino con il nome di una casa e un numero. A me e Carlo cosa capita? Serpe verde. Una sciagura immane, come se un milanista finisse nella squadra interista alla finale di Champions. Com'era possibile che noi, eroici guerrieri di Grifondoro, fossimo finiti lì, nella casa più prepotente di tutte? Ma soprattutto, a cosa servivano quei bigliettini? Noi eravamo seduti dalle 5 lì ad aspettare. Avevamo il diritto di essere i primi. Secondo me coloro che leggono Harry Potter possono essere sia appassionati di fantasy, come lo siamo io e Carlo, ma anche persone che hanno un passato un po' particolare, come siamo anche io e Carlo. Penso che questo ragazzino ha davvero mille sfortune nella vita e comunque riesce a diventare un uomo con la U maiuscola. Così alle 23 le porte si spalancano e noi corriamo. Siamo i primi davanti alla cassa. Avevamo vinto. Se non che ci avvisano che il primo volume sarebbe stato venduto alla squadra che avrebbe vinto un piccolo quiz e il numero vincente sarebbe stato pescato. Noi eravamo basiti. Carlo però mi guarda e mi assicura: tranquilla, ho il numero 39, è il numero di Dante, vinceremo. Penso che sia il 33 il numero di Dante, ma non importa. La cosa mi calma comunque. Ovviamente la nostra squadra, il quiz, lo vinse. Così, sopra un piccolo palco allestito, l'animatore capo decide che è il momento di estrarre il numero. Io e Carlo, in prima fila, stanchi, con la pressione di tutta la gente che spingeva, il caldo per il negozio gremito e l'ansia di non poter essere noi i primi. Estraggono il numero. È il 39. Carlo scatta verso il piccolo palco, felice. Ammetto che in quel momento provavo una certa invidia. Guardo la mia amica e le dico: pensa che fortuna, dovevo essere io. E non ascolto quello che succede intorno. Sì, perché Carlo era salito sul palco e aveva detto poche semplici parole. Aveva detto: sono molto felice, ma cedo il mio biglietto alla mia migliore amica, perché lei se lo merita più di me. Ecco, quel biglietto rappresentava il primo volume in Italia del libro che avrebbe messo fine alla nostra adolescenza. Ed era lì per me, ceduto dal mio migliore amico. Quello che successe quella sera era specchio di quello che successe in quel libro. Qualsiasi mago oscuro, in fondo, può essere sconfitto da 3 ragazzi, purché legati da una profonda amicizia. Semplice, romantico e meravigliosamente cliché. It's a kind of magic. It's a kind of magic. Ognuno di noi ha una passione. A volte, se si è fortunati, se ne ha più di una. Alcune sono forti, totalizzanti, assolute. Altre sono più deboli, ma comunque reali. Poi invece ci sono quelle che fanno finta. Quei desideri che non sono nostri, ma crediamo che lo siano. Quel piacere che ha un po' un sapore da Big Bubble, un po' falso. Quella che Valentina ha raccontato è una passione fortissima. È quasi un amore. È un coinvolgimento tale nelle vicende di un libro da diventare una filosofia di vita, un inno all'amicizia e addirittura una lotta continua contro il male. E nella sua descrizione dell'attesa davanti alla libreria, è chiaro il suo bisogno di sentirsi parte di un tutto e di esserne anche la più fortunata di quel tutto. Non ti metteresti in coda per ore davanti a una vetrina se non avessi il desiderio di condividere quell'esperienza con qualcuno, e non lo faresti se lo considerassi solo un passatempo. Come chi è stato ore sotto il sole ad aspettare Bruce Springsteen senza poter andare in bagno o bere un sorso d'acqua, pur di dire io c'ero. Ecco, queste passioni il tempo te lo trasformano. Non senti più altre necessità, non hai più altri desideri. Hai un solo pensiero in testa. E da quello può venirti tutto il bene o tutto il male. Io non lo so da dove nascano e che ragione abbiano. Non so se siano una prerogativa dell'uomo oppure no. Però invidio sempre un po' quando vedo qualcuno che si sente così perdutamente coinvolto da qualcosa. Chissà, forse le grandi passioni servono alla nostra specie a rimanere unita. Forse l'uomo ha bisogno di condividerle, per non sentirsi solo e per restare unito al resto del mondo. E così si riempiono gli stadi, le arene sportive e musicali, le discoteche traboccano di gente, così le spiagge d'estate o le feste di paese. Perché è importante sentirsi parte di un tutto. E allora la passione si alimenta e a volte addirittura può sfiorare il ridicolo. Ad esempio, se un gruppo musicale avesse un solo fan, per quanto sfegatato, probabilmente non lo vedreste urlare e saltare all'uscita dei suoi idoli dal portone dell'albergo, lì, da solo. Probabilmente si avvicinerebbe a loro per cercare una stretta di mano, un autografo, quattro chiacchiere. Forse la passione è un fenomeno che si alimenta con l'aumentare delle persone coinvolte. E poi ci sono le passioni deboli, quelle che, sì, mi piace la pittura, ma anche se non dipingo, o se non vedo una mostra, non fa niente. E poi ci sono quelle cose che non sai bene se sei tu a volerle fortemente o se qualcuno ti ha convinto, una pubblicità, un amico, una fidanzata. Io non sono tipo da passioni forti, in genere, però ricordo molto bene quanto fosse praticamente necessario per me andare a vedere lo spettacolo di fine anno quando ero alle scuole medie. Ero piccolo e i miei avevano programmato una specie di gita in famiglia quella settimana, ma io, anche se non partecipavo alla recita di fine anno, che comprendeva anche canti, balli, ho fatto di tutto per convincerli a restare. Avevo vissuto quell'appuntamento da mesi, non volevo farne parte perché ero timido, ma volevo vedere i miei compagni fare tutto quello che avevano provato per ore e ore. E alla fine ero talmente convinto che i miei posticiparono la partenza e vennero con me a vedere lo spettacolo nell'aula magna della scuola. Vista da fuori poteva sembrare ridicola, ma per me fu bellissimo. Ci fosse stata una fila da fare di notte con sacchi a pelo e termos, io l'avrei fatta. E non me ne sarei pentito, sono sicuro. Raffaele scrive: io ho atteso 7 anni l'arrivo della copertura ADSL nel mio piccolo paesino di poco più di 1000 anime. Non ne potevo più di attese estenuanti prima che le pagine si caricassero. Ricordo bene gli ultimi giorni prima che la centrale venisse collegata, passati a tenere d'occhio la spia del modem. Proprio mi immagino che giornate, Raffaele, una tensione altissima. E il fascino dell'attesa, che può far diventare romantico ed evocativo anche un avvenimento prettamente tecnico ed apparentemente slegato dalla sfera emotiva. 349-238-6666, oppure voi siete qui, @radio24.it. Stiamo parlando di quelle cose per cui avete aspettato a lungo, cose che di solito sono generate da un'attesa, per cui sgombriamo il campo da, che so io, l'attesa per un esame, per l'esito di un esame o per sapere se la propria moglie è incinta oppure no. Insomma, sono attese diverse queste. Anche se qualcuno scrive, ad esempio, siamo in attesa, aspettiamo Mattia, data presunta 10 settembre. Beh, allora buona attesa. 349-238-6666. Qualcuno che l'attesa l'ha fatta fuori dalla Feltrinelli International di Piazza Cavour a Milano. Era il 2007. Lei era ed è Valentina. Pronto? Ciao Matteo. Ciao Valentina, come stai? Io bene, tu? Io benone. Dove ti trovi? Che sei in strada? No, sono a casa, ho la finestra aperta. Ah, ok. Cosa stai facendo, Valentina? Stavo ascoltando la trasmissione, prima stavo studiando. Ok, che stavi ascoltando la trasmissione, immagino, essendo tu l'autrice della storia di oggi. Stavi studiando perché tu studi architettura, giusto? Sì, esatto. Però non un'architettura qualunque. Prima mi dicevi progettazione tecnologica ambientale, giusto? Esatto, sì, è un curriculum della facoltà di scienze dell'architettura. È un indirizzo, sì, giusto? Un indirizzo, sì. Mi ricordi, perché me l'hai spiegato fuori onda, ma vorrei capire meglio, che cosa diventi con progettazione tecnologica e ambientale? No, divento un architetto come tutti gli altri, però devo fare l'esame di Stato, però praticamente nel corso di studi ho un esame appunto sulla sostenibilità, sull'innovazione tecnologica, il controllo ambientale, più i laboratori dovrebbero essere più verso la parte tecnologica. Ma senti, e in università come la vendono questo indirizzo? Ti dicono sicuramente poi trovate lavoro, il 70% è già impiegato, il 60% no, quasi? No. Cioè, nel senso che è un deserto politecnico... comunque? Sì, esatto, esattamente. Però abbiamo fatto il Politecnico di Milano, quindi siamo al primo posto, così dicono, però non lo so. Cioè, al Politecnico di Milano dicono che siamo al primo posto? Sì, okay, sì, perfetto. Esatto. Senti, veniamo a Harry Potter invece, perché c'è una cosa che tu dici che è molto romantica, però probabilmente anche in parte reale, quando dici con l'ultimo libro di quella saga finiva la nostra giovinezza, in qualche modo. E la cosa che mi incuriosisce è che tu avevi 14 anni quando hai letto il primo libro di Harry Potter. Sì, quando ho letto, sì, esatto. E ne avevi nel 2007... 20? 20, esattamente. 20. Sì, 19-20 ne avevo. Quindi, esatto. Quindi è vero quando dici che sei un po' cresciuta insieme a sto sì, ragazzino? No, direi che sono cresciuta io e anche Carlo, siamo cresciuti con il maghetto, esattamente. Senti, la cosa che invece per la serie Mi faccio i fatti tuoi, che non capisco, è quando dici che tu e Carlo avete avuto un passato particolare... Cioè, come tutti gli adolescenti, abbiamo avuto momenti burrascosi. Momenti di alti e bassi. Ma tra di alti voi o bassi. In generale? No, in generale, nella vita ci sono sempre le sfide di tutti i giorni. Ma scusami, perché adesso tutti se lo chiedono, o perlomeno tutti di là dal vetro se lo chiedono. Siete fidanzati tu e Carlo? Lo siete no, stati? No, assolutamente. No. Va bene. Carlo ci avrà la sua fidanzata, sarà... Sì. Fidanzato. Benissimo. E io okay. Allora veniamo al quiz che avete fatto, sì. Per allora tu praticamente me la spieghi un attimo, hai aspettato 5 ore insieme, sì, a Carlo là fuori, sì, avete detto esatto, siamo sì. I primi, ci prenderemo la prima copia, giusto? Sì, eravamo probabilmente attaccati alla porta di vetro e lì ho detto vabbè, ci siamo seduti, abbiamo aspettato, okay. Invece aprono e vi dicono ah no, non funziona così, c'è un quiz da sostenere. Esatto, il quiz noi lo vinciamo perché praticamente ma che quiz era? Che domanda era? Ma erano no. Sui libri, sui film, domande un po' ad Harry Potteriane, perfetto. Solite cose. Niente, a quel punto ho capito, voi lo vincete, viene estratto esatto. Carlo e Carlo lo regala a te. Sì. Senti, invece una domanda che è tipica per chi si innamora dei libri e poi vede i film, te la faccio, puoi già immaginarla. Com'è stata la prima volta che hai visto il film? Com'è il film rispetto al libro? No, vabbè, secondo me vabbè, i primi sono abbastanza fedeli perché il libro è ancora molto più fantasy, secondo me. E poi man mano che il libro diventa più cupo, più dark, con tematiche molto più complesse, il film lo semplifica molto. Ok. Senti, invece tu hai altre passioni forti, hai fanatismi particolari per cui hai aspettato ore oppure hai fatto cose strane? Beh, Ligabue, ho aspettato ore il concerto a San Siro a metà luglio, due volte. Quindi, se dovessimo delineare, diciamo, due grandi passioni di Valentina, abbiamo Harry Potter da una parte e Ligabue dall'altra. Sì. Cioè, si possono sposare queste due passioni? Non lo so. No, non lo so neanch'io, te lo chiedo. Harry Potter fa proprio parte della mia infanzia, senza okay. Ombra di dubbio. Ligabue la mia adolescenza. Adolescenza, sì, no, Ligabue è successo quando ero più grande, 22-23 anni. È successo quando ero più grande? È successo, come dire, prima io non ho fatto niente. Valentina, grazie mille, in bocca al lupo per il tuo esame e per la tua laurea. Grazie mille, grazie a te. Ciao, grazie, buona giornata. La scorsa primavera, davanti a una sede di Media World, 3 ore di attesa per l'uscita di un gioco per PC tale Diablo 3 per accaparrarsi una copia limitatissima. Ecco, immagino che siano Valentina e Carlo nella foto che Valentina ci ha mandato e che trovate sul sito di Radio 24, alla pagina di Voi Siete Qui. Sono sorridenti e felici e mi piace immaginarli alla fine di questa estenuante attesa per l'uscita di Harry Potter. Sono giovani, cioè avranno, lei dice 24, probabilmente qua ne hanno qualcosa di meno. Sono vestiti da sera, no, probabilmente non sono l'uscita di Harry Potter. No, sono più che altro vestiti tipo da plastic. Cioè, per dire plastic, vabbè, chi lo... Allora, ok, cominciamo da capo. Chi lo sa cos'è il plastic? Il plastic è un locale di Milano che non ho mai particolarmente frequentato, ma se ci passi davanti in Viale Umbria vedi la gente in coda e più o meno capisci, no? Cioè, sono persone che hanno... È stato chiuso il plastic? No, ma l'hanno riaperto, mi pare. Forse lo riaprono. Vabbè, sono dietro anche io. Vabbè, la sede è cambiata. Comunque, chiunque sia passato davanti al plastic con la gente in attesa, senza esserci per forza entrato, sa di cosa parlo, insomma. Persone che si vestono in maniera... Non lo so, mi sono incartato in sta roba di come la gente che si veste al plastic, però avete capito, cioè... ecco, bravo Bonini, è un club in cui si va a ballare... Immaginati uno che si veste per andare a ballare alle 3 di notte in un posto un po' cool, un po' chic, un po' raffinato. Niente, neanche, zero. Vabbè ragazzi, fate come se non l'avessi diretta sta roba sul plastic, ok? Andate a vedervi la foto sul sito radio24.it, la pagina di Voi Siete Qui. Qualcuno mi scrive: per piacere Matteo, di alla coppia che aspetta un figlio che, come mio figlio, tutti Mattia nascono il 5 di settembre. Ecco, se è così è domani, quindi insomma, preparatevi. Anni di attesa per diventare giornalista professionista e vivere finalmente la mia vita da precaria. Erika, ho aspettato 22 anni per comprarmi un'Honda Transalp. Francesco, allora, l'Honda Transalp, per chi non la sapesse, adesso comincio una roba tipo la plastic e non ne esco più alla seconda puntata. L'Honda Transalp è una moto, è un enduro, cioè una di quelle moto alte che si usano per andare un po' in fuoristrada, un po' in strada, ma più che altro credo la Transalp sia più Gran Turismo, per fare lunghi viaggi. Ecco, però Francesco, tu ci devi spiegare perché, cosa ti ha fatto aspettare 22 anni per comprarti un'Honda Transalp, se perché dovevi raccogliere i soldi per comprarla, oppure se era tipo una roba in edizione limitata, o robe del genere. Non è vero, davvero? Scusate, allora, questo, diciamo, quello che sta succedendo adesso in diretta un po' rivede tutte le cose che ho detto e contro di me in questi ultimi 5 minuti, perché Valentina, cioè autrice della storia e protagonista di questa puntata, mi scrive sul profilo Facebook del programma: eravamo davvero al plastic. Quindi adesso andate a vedervi la foto e poi passate, non potete più passare davanti al plastic, però più o meno avete un'idea di quello di cui sto parlando. Oggi si raccontano proprio quelle attese lunghissime che vi hanno fatto aspettare qualcosa per cui veramente non vedevate l'ora, e è arrivato un messaggio di Stefano che mi fa ridere, perché racconta di questa attesa lunghissima, di una roba per cui in prova ne fregava pochissimo. Concerto dei REM, Roma 1994. Il mio primo concerto, se si escludono i concerti in Piazza dei Paese. Diciamo il mio primo concerto a pagamento. Siamo in tre. All'epoca solo uno di noi ha la patente. Ci passa a prendere con una 126 rossa senza ammortizzatori. Ci facciamo mezzo raccordo anulare per raggiungere il Palaeur in una posizione a metà tra gli equilibristi e i giocolieri, per evitare che il nostro peso faccia sbattere la carrozzeria contro le gomme. Arriviamo alle 11 del mattino davanti ai cancelli. Ore di attesa interminabile, mangiando 12 panini a testa preparati dalle nostre madri. Mai stato un fan accanito dei REM o di altri gruppi, ma all'epoca portava così. Ovvero arrivare 12 ore prima almeno. Del concerto ricordo solo che se ne andò la corrente due volte. Era il 94, quindi i REM non erano evidentemente... Beh, oddio, nel 94 già c'era Losing My Religion, Out of Time, erano già usciti. Beh, però il Palaeur, quindi non hanno fatto... era un palazzetto... Però devo dire, saltare la corrente due volte a un concerto non è poco. 349-238-6666. Ecco, adesso dovrei fare un disclaimer per tutti quelli che hanno intenzione, a cui magari è venuta voglia di leggere Harry Potter che se non l'avete mai letto, come è il caso praticamente di tutta questa redazione, anche Pietro Lacorte non ha, nessuno ha mai letto. Avete visto un film di Harry Potter? Nessuno, perfetto. Bonini l'ha visto come me in casa di amici a stralci con dei bambini. Se mai vi fosse venuta voglia di leggere Harry Potter, non ascoltate i prossimi minuti, perché i prossimi minuti sono quello che, correggimi Tiziano se sbaglio, si definisce uno spoiler, giusto? Che non è l'alettone, perché per me, giuro che fino a qualche minuto fa lo spoiler era ancora l'alettone, quello che anni fa fece passare me e un mio amico davanti a una 127 Sport al mio paese, sai la 127 Sport, quella nera con la striscia rossa e con l'alettone, e il mio amico disse: ma che tamarrata sto alettone. Non ci eravamo accorti che il proprietario era in auto, scese e ci disse: questo spoiler sarà anche tamarro, ma mi fa fare 7 km all'ora in più. Quindi per me lo spoiler era quello. Invece ho scoperto che lo spoiler è quando in sostanza anticipi la fine di qualcosa. Quindi ripeto, a breve ci sarà uno spoiler. Ma aspetta, si dice ci sarà uno spoiler di Harry Potter o faccio uno spoiler di Harry Potter, Tiziano? Ma sì, va bene, ok, mi sembra chiaro che non tutti sanno bene di cosa stiamo parlando, però facciamo una spoilerata, ok? Cioè, in sostanza, sto per leggervi le primissime righe del primo libro della saga di Harry Potter e le ultimissime righe dell'ultimo libro della saga di Harry Potter. Mr. e Mrs. Dursley di Private Drive numero 4 erano orgogliosi di poter affermare che erano perfettamente normali, e grazie tante. Erano le ultime persone al mondo da cui aspettarsi che avessero a che fare con cose strane o misteriose, perché sciocchezze del genere proprio non le approvavano. Mr. Dursley era direttore di una ditta di nome Grunnings che fabbricava trapani. Mrs. Dursley era magra, bionda e con un collo quasi due volte più lungo del normale. I Dursley avevano un figlioletto di nome Dudley e secondo loro non esisteva al mondo un bambino più bello. Possedevano tutto quello che si poteva desiderare, ma avevano anche un segreto e il loro più grande timore era che qualcuno potesse scoprirlo. Non credevano che avrebbero potuto sopportare che qualcuno venisse a sapere dei Potter. Non l'aveva mai detto a nessuno dei suoi figli e vide la meraviglia sul volto di Albus. Ma ormai gli sportelli sbattevano lungo il treno rosso e le figure sfocate dei genitori si avvicinavano alle carrozze per i baci d'addio e le ultime raccomandazioni. Albus balzò a bordo e Ginny chiuse lo sportello alle sue spalle. Dai finestrini più vicini si sporgevano studenti, un gran numero di facce, sia sul treno sia sul binario. Erano tutte rivolte verso Harry. «Cosa hanno tutti da guardare?» chiese Albus. «Non farci caso», rispose Ron. «È per me. Sono estremamente famoso». Il treno cominciò a muoversi e Harry lo seguì camminando, guardando il viso magro del figlio già infiammato per l'emozione. Continuò a sorridere e a salutare, anche se era come un piccolo lutto vedere suo figlio allontanarsi. L'ultima traccia di vapore svanì nell'aria autunnale. Il treno svoltò. La mano di Harry era ancora alzata in segno di saluto. «Non avrà problemi», mormorò Ginny. Harry la guardò e distrattamente abbassò la mano a sfiorare la cicatrice a forma di saetta sulla fronte. «Lo so», disse. La cicatrice non gli faceva male. Da 19 anni andava tutto bene. Ok, questo era la fine. Era la fine della fine. C'era il finale della fine del finale dell'ultimo libro della saga di Harry Potter. Il settimo, che si chiama The Deathly Hallows, giusto? Abbiamo fatto un quarto d'ora prima a cercare di capire le pronunce. E lei, la Rowling, ci ha assicurato che è l'ultimo, ragazzi, poi basta. Federico mi scrive: ho aspettato tutta l'estate per The Dark Knight Rises, cioè per l'ultimo Batman, e non mi è piaciuto. E vabbè, però non entriamo nel merito di Batman, perché qua cominciano discussioni molto più ampie. E poi ancora qualcuno mi scrive: ciao Matteo, il Plastica è un locale gay? No, non è vero, non è un locale gay, è un locale generico. È un locale, punto, è un locale e basta. Chiudiamo la puntata di oggi con questa nuova piccola sezione che dedichiamo alla definizione della puntata. Abbiamo deciso, insieme alla mappa del programma che trovate sul sito di Radio 24, anche di trovare una definizione, cioè una parola che definisca tutta la puntata. La parola di oggi, ovviamente, è passione. E questa è la definizione del dizionario. Momento o motivo della vita affettiva caratterizzato da uno stato di violenta e persistente emozione, specificamente in quanto riconducibile a un ambito erotico, sentimentale o in contrasto con le esigenze della razionalità e dell'obiettività. Essere schiavo delle passioni, ad esempio, è stata la sua prima passione. Vivace inclinazione, per lo più lodevole o comunque non riprovevole. Passione per la musica, per la pittura, per la caccia. L'etimo, la deriva dal latino passionis, che deriva da passus, participio passato di pati, cioè patire, soffrire. Data fine del XIII secolo. Sono le 16:45 minuti, questa è Radio 24. Ringrazio Tiziano Bonini, Margherita Hina, Pietro Lacorte e soprattutto Valentina. Questa era la storia di Valentina e anche lei da oggi è un punto rosso su una mappa. Ciao a tutti, sono Cristina, tra poco compirò 52 anni, vivo a Viareggio, a 2 passi dal mare e ho scritto il racconto che andrà in onda domani. Era la mia prima volta, avvenuta il 21 febbraio 2006.